in primo piano. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a In Primo Piano, la rassegna stampa di Radio 24. Daniele Bellasio in studio, Carmelo Lauricella in regia. Allora, caos al Senato, caos all'Assemblea regionale siciliana. Il presidente Grasso addirittura evoca l'intervento della polizia in un'aula parlamentare. Sembra reggere soltanto l'intesa tra Renzi e il CAV, e anche su questo fronte ci sono delle novità. L'eroe del giorno nei giornali di oggi è il senatore della Lega Candiani. Eroe perché? Perché è colui che ha scritto, materialmente proposto l'emendamento su cui il governo è andato sotto. Si possono trovare mini ritratti e interviste vista il senatore Candiani, peraltro un emendamento in cui si dice che il nuovo Senato potrà deliberare sui temi etici, al di là dell'aspetto tattico-politico. Tutto sommato, dal punto di vista della sostanza dell'emendamento, non è poi così problematico o scandaloso. Invece Chiamparino, il presidente governatore della regione Piemonte, diventa il presidente della conferenza delle regioni, mentre il ministro degli esteri Federica Mogherini, attraverso una lettera, su Repubblica si può vedere anche la fotografia della lettera con i saluti scritti a mano di Matteo Renzi, con una lettera del premier Matteo Renzi, appunto Federica Mogherini viene ufficialmente candidata a Lady PESC, ovvero a commissaria, vicepresidente della Commissione Europea responsabile per la politica estera dell'Unione. Vedremo se la candidatura andrà a buon fine. Invece non si sa come finirà la gara nella FIGC, resta ancora tutto incerto. Tavecchio non si ritira per ora, dice: se le leghe continuano a sostenermi, io continuo ad andare avanti. Dall'incertezza italiana alle preoccupazioni mondiali. Intanto in Libia cade Bengasi, Libia sempre più nel caos, molte analisi, le due più interessanti a mio modo di vedere: Carlo Panella su Libero e Ennio Di Nolfo su Il Giorno Quotidiano Nazionale. Tregua a Gaza, alcuni giornali sono riusciti a prendere la notizia arrivata nella notte, e si spera che sia una tregua più duratura delle altre. Mentre si tratta sul default tecnico dei bond argentini, sul Sole 24 Ore si può trovare una spiegazione speciale con domande e risposte su che cosa significa tutto quello che bisogna sapere sul default dei bond argentini del Corno Loconte, a pagina 2-3 del Sole 24 Ore, che decide appunto anche di aprire su questa notizia. Argentina bond in default, si tratta per evitare il crack. Preoccupa nel mondo anche Ebola, la diffusione in alcuni paesi africani, Sierra Leone soprattutto, ma il ministro Lorenzin rassicura: non c'è pericolo per l'Italia. Una chiusa sul mondo dei giornali da ieri, con i conti di RCS, con un comunicato dell'azienda editrice del Corriere della Sera. Si sa che il direttore Ferruccio De Bortoli lascerà nella primavera del 2015 e nel frattempo contribuirà alla scelta del suo successore, dopo una stagione che in due riprese comunque ha comportato 12 anni di direzione di De Bortoli al Corriere della Sera. Allora, iniziamo con la politica, anche se appunto il caos non può dare spunti di particolare, come dire, chiarezza nella comprensione di quanto sta accadendo. Bisogna dire che è divertente la prima pagina della Padania di oggi. C'è una foto di un mare stupendo, sembrerebbe di capire Sardegna, ed essendo la fine di luglio questo invoglia. E c'è un Matteo Renzi con una abbronzatura, diciamo quelle tipiche da sciatori, con il segno degli occhiali bianchi che sono sulla testa, e un vistosissimo segno bianco di una canotta evidentemente tenuta troppo indossata mentre prendeva il sole. È carino il titolo, Cottarello. È il titolo su Renzi. La Padania, in modo un po' forte, dice: l'inconcludente Renzi in forte difficoltà su tutti i fronti. Il commissario alla spending review rivela che le spese sono prive di copertura. Il ministro Padoan sconfessa le scelte di politica economica. In Senato, nel caos generale sulle riforme, un emendamento del Carroccio manda sotto il governo, appunto il prode senatore Candiani. Cottarello, con un gioco di parole, è una foto di un premier abbronzato ma mica in tutto il busto. È la prima pagina simpatica della Padania. Ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo appunto in Senato, il punto di Stefano Folli sulla prima pagina del Sole 24 Ore. La campagna d'autunno, ritorna spesso sui giornali il fatto che in autunno saranno problemi seri per il governo. Per fortuna, scrive Folli, l'equivoco si è chiarito. Ieri per un attimo è sembrato che il presidente Grasso avesse adombrato l'intervento della polizia per sedare i tumulti. Certo, l'istituto sta decidendo la propria semisoppressione, ma la forza pubblica in un'aula parlamentare non sarebbe il modo migliore per accelerare la riforma. Anzi, spiega Folli, sarebbe, non c'è dubbio, un precedente nella storia delle democrazie occidentali. Finora esiste solo il caso del colonnello Tejero in Spagna, ma quello era un tentativo di colpo di Stato da parte della Guardia Civile. A Palazzo Madama, invece, non c'è pericolo di golpe, nonostante il parere di Beppe Grillo, e non c'è nemmeno quella deriva autoritaria che tanto irrita il premier Renzi quando gli viene rinfacciata nel fuoco delle polemiche. A Roma c'è solo una gran confusione. Il modo peggiore di cambiare la Costituzione a opera degli stessi che fino a 3 anni fa, quando ancora governava Berlusconi, la definivano la più bella del mondo. Una gran confusione che appunto non aiuta gli italiani a capire e la politica a fare. Spiega Stefano Folli, difficile non vedere il divario tra il caotico dibattito di Palazzo Madama e la realtà di un paese in piena stagnazione economica. In settembre, una volta approvata finalmente la riforma, ma sarà il primo di 4 passaggi parlamentari, Renzi dovrà applicare il suo ottimismo dinamico ai problemi indicati da Padoan. Lo stesso caso Cottarelli rappresenta un indizio indicativo della distanza tra le parole e i fatti. Il premier lo ha liquidato con una battuta, la spending review la facciamo anche senza di lui, quando invece il punto è chiaro. E qual è il punto? I tagli alla spesa non sono una questione tecnica, ma esclusivamente politica. Vedrete, ci torneremo. Cottarelli o chi per lui può preparare i dossier che vuole, ma senza una precisa volontà politica del governo e del Parlamento, i tagli non si faranno. Anzi, la spesa aumenterà come sta in effetti aumentando e nessuno ha potuto smentire su questo punto la denuncia dell'alto commissario, ormai delegittimato e messo nella condizione di lasciare presto o tardi il suo incarico. È un episodio, conclude Folli, che passa persino in secondo piano rispetto alle immagini delle risse quotidiane e alla notizia che la maggioranza è stata battuta su un emendamento minore del DDL Boschi. Viceversa, in Europa le priorità sono ribaltate. I conti pubblici in Italia suscitano più interesse della trasformazione del Senato. E si capisce, visto che la diffidenza nei nostri confronti riaffiora sempre come un fiume carsico. Lo dimostra il recente editoriale della Welt, giornale tedesco. Stefano Folli, nel suo punto, come sempre molto interessante, mette assieme lo stallo delle riforme e il caos in Senato per quanto riguarda appunto il DDL Boschi. Sulla prima pagina del Sole, parentesi finanziaria, c'è un bel dibattito interessante su una delle regole più importanti sulle OPA, le nuove regole su OPA e governance delle società quotate. Quel voto plurimo così opaco è l'analisi dell'editorialista Luigi Zingales, contrario a questo strumento, mentre Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, spiega che però è una cura che aiuta le IPO in un periodo particolarmente delicato in borsa e in una borsa come quella italiana che ha bisogno di iniezioni di fiducia, e quando si dice fiducia si intende appunto azioni, liquidità, soldi. Dicevamo che si parla spesso dell'autunno, la prima pagina dell'autunno politico, la prima pagina di Libero di oggi, perché Renzi non sta sereno. Ovviamente il riferimento è all'hashtag utilizzato tempo fa da Matteo Renzi nei confronti di Enrico Letta, allora premier, e appunto era Enrico stai sereno. Ieri l'esecutivo è stato impallinato sulle riforme, alla fine riuscirà a portare a casa il nuovo Senato, ma poi cominceranno i guai. Leggi su statali, lavoro e competitività, i debiti da saldare alle imprese, la finanziaria. Tutte trappole e la ripresa non si vede. La missione del Premier, crescita bassa, le cose non vanno come avevamo immaginato. La sintesi, appunto, proiettandoci su agosto, del direttore di Libero, Maurizio Belpietro. Dopo agosto arriverà il settembre nero di Matteo Renzi. Il rientro dalle vacanze per il governo segnerà infatti la fine del periodo dorato e l'inizio dell'autunno caldo. Lo si capisce già oggi da ciò che sta accadendo in Senato. Dopo il trionfo delle europee sembrava una passeggiata, scrive Belpietro. L'allentamento dei vincoli europei, parentesi, siamo il partito più votato tra quelli che fanno parte del PSE, ci devono ascoltare. Le riforme costituzionali, anche quella elettorale, parentesi, da votarsi in fretta entro l'estate per poi passare a cose più serie. Perfino le nuove regole sul lavoro, parentesi, tanto da far venire l'idea di riprendere in mano il progetto di abolire l'articolo 18. E invece, spiega Belpietro, proprio quando la strada davanti al Presidente del Consiglio sembrava spianata e priva di grilli o caimani, a rallentare la corsa all'improvviso sono spuntate le trappole. La corsa, la velocità, quello che è stato un po' il modo di agire di Matteo Renzi da quando si è candidato prima alle primarie contro Bersani, poi alle primarie per diventare segretario del PD e infine per come è arrivato a Palazzo Chigi. Come la si spiega? La spiega un'analisi di Claudio Cerasa, giornalista molto attento alle vicende del Partito Democratico, sulla prima pagina del Foglio Quotidiano, diretto da Giuliano Ferrara. Tra Padoan e il Senato cosa funziona e cosa no nel dispotismo democratico di Renzi? La storia di Carlo Cottarelli, rassegnata commissario alla Spending Review, che sarà forse la prima vera vittima dei tagli del governo, speriamo non l'unica, rappresenta la fotografia migliore per capire cosa diavolo sta succedendo attorno al mondo di Renzi. A 5 mesi dal suo insediamento a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, al di là delle singole partite economiche e istituzionali, ha ancora dalla sua un consenso straordinario che gli deriva da una miscela composta da alcuni ingredienti. C'è il fattore velocità, perché il governo Renzi, come dice lo stesso Renzi, è davvero come una bicicletta. Va avanti solo se si pedala come i pazzi, e se non si pedala come i pazzi conviene scendere e andare a votare. C'è il fattore duello, perché la bicicletta di Renzi acquista velocità e anche popolarità quando Renzi indica un nemico da battere. E il gioco ovviamente funziona bene quando i nemici sono deboli, modello Mineo, o quando i nemici sono invisibili, modello corporazioni, gufi, rosiconi. Funziona meno bene quando i nemici non si chiamano Mineo, ma si chiamano per esempio Merkel. C'è il fattore contemporaneità, ovvero il suo vivere naturalmente nel tempo presente, il suo viaggiare su una lunghezza d'onda che nessun altro politico è in grado di interpretare come il segretario. Ma soprattutto il dettaglio, o meglio il filo che unisce Renzi agli italiani che lo hanno votato, è legato a un concetto che si può inquadrare in un'espressione semplice: il dispotismo democratico. E qui ovviamente il caso Cottarelli è un caso di scuola, perché mette in evidenza i due aspetti della stessa medaglia, ovvero la voglia di Renzi di accentrare a sé le cose da decidere. Ieri ha detto è la politica che decide la spending review, ma poi la necessità di farle quelle cose avvocate a sé. Sono talmente affezionato al traffico che lo chiamo continuamente. Il traffico è il prossimo blocco. Dunque, eravamo sul Foglio Quotidiano. Allora, per divertirci un po', volevo leggere un pezzetto della rubrica di quel genio di Maurizio Milani, Innamorato fisso. A pagina 4 del Foglio si parla di Senato anche qui. Emendamento da discutere oggi. Riforma del Senato della Repubblica. Il senatore deve provenire da un'elezione di secondo livello, quindi dai consigli regionali. E fino a qui siamo tutti d'accordo. L'unica, quasi tutti, l'unica condizione è che quando viene nominato senatore deve sposare un'orfana, così si mischiano le caste sociali. Troppo comodo che un senatore sposi una donna prefetto. E le orfane chi le sposa? Ecco perché nella riforma del Senato è obbligatorio che il neo senatore o senatrice sia scapolo o nubile. Così Maurizio Milani sul Foglio ironizza sulle discussioni sul Senato. Abbiamo detto nel blocco precedente che quello che sembra reggere sulla via delle riforme, nonostante tutto, con una caratteristica molto simile alla resilienza, è il cosiddetto patto del Nazareno, ovvero il patto tra Berlusconi e Renzi per le riforme. Patto del Nazareno che si appoggia innanzitutto sulla questione della riforma elettorale, sull'Italicum, che però nel frattempo è cambiata più volte già e sembra che cambierà ancora, perché ci sono da parte sia di Renzi sia di Berlusconi delle aperture sul fronte delle preferenze, mentre finora erano previste le liste bloccate, quindi non le preferenze, e anche sul fronte addirittura delle soglie per il premio di maggioranza. Quindi mentre in Senato c'è il caos, mentre il PD a giorni alterni si ricompatta e si unisce e si divide, mentre PD e SEL litigano, sembra invece reggere il patto del Nazareno. Abbiamo scoperto all'inizio di questa settimana che intanto forse, diciamo, è un patto scritto. Non abbiamo ancora scoperto di chi è la calligrafia, ma il consigliere politico di Forza Italia Toti ha spiegato che appunto è un patto scritto. Oggi sul Fatto Quotidiano il titolo principale è riferito a un dettaglio, ma nemmeno poi così dettaglio, insomma una cosa importante che sarebbe contenuta nel patto del Nazareno, ultimo segreto del Nazareno: sul Colle tutti tranne Prodi. Nuovi particolari sul patto occulto siglato dal capo del governo e dal pregiudicato, termine che il Fatto utilizza per definire Silvio Berlusconi, il 18 gennaio scorso nella sede del PD. Una clausola top secret, ma top secret mica poi tanto, visto che è sulla prima pagina del Fatto, impegna i contraenti a concordare un candidato comune alla successione di Napolitano, ma con l'espresso ostracismo al professore, appunto a Romano Prodi. Intanto tra i due si parla di una nuova intesa sulle preferenze nell'Italicum. L'articolo di Fabrizio D'Esposito è a pagina 4 del Fatto Quotidiano e raccoglie appunto voci, rumors, le cosiddette fonti bene informate su che cosa è contenuto nel patto del Nazareno, definito addirittura a un certo punto in un titoletto papello. Ma passando alle cose, diciamo, più concrete, non che le trattative sulle riforme non lo siano, ma diciamo le cose più vicine alla realtà dell'economia, passiamo, ci sono due interviste oggi al ministro del welfare del lavoro Giuliano Poletti, una incentrata più sulle pensioni, sul Messaggero, pensioni uscite più flessibili, intervista al ministro Poletti, basta interventi tampone, regole nella legge di stabilità, tagli alla spesa, il premier scarica Cottarelli, risparmi su possibili sono possibili anche senza tecnici. Questo è appunto quello che ha detto ieri Renzi. L'altra intervista, sempre al ministro Poletti, è sulla stampa ed è più generale, sulla politica in generale. Il ministro: niente piano B, andiamo avanti con le riforme. Poletti: scelte giuste, negli ultimi due mesi 100.000 occupati in più. Chiede Roberto Giovannini, l'intervistatore. Ministro Poletti: anche il premier Renzi ammette che l'economia così non va. Gli 80 euro e il suo decreto sui contratti a termine non hanno dato la scossa. Che si fa? Intanto chiediamoci come sarebbero andate le cose senza quei due interventi, dice Poletti. C'è un contesto generale tutt'altro che positivo. Un po' di guerre in varie parti del mondo, la zona euro che non è brillante e quasi in deflazione, la crisi ora dell'Argentina, e in questo contesto oggettivamente problematico l'Italia reagisce più lentamente. Che bisogna fare? Continuare a fare le riforme, tante e più velocemente possibile. Torna l'idea di velocità, che per ora appunto è un'idea. Se questo paese, continua Poletti, non fa le riforme, da questa situazione non si tira fuori né oggi né domani. Ma è Renzi a dire che le riforme non si mangiano. Intanto si dà il segno e il senso dell'impegno dell'Italia di mettere a posto le cose, e poi riforme come quelle dell'amministrazione, l'energia, il lavoro daranno i frutti nel tempo. Tuttavia, chiede sempre Giovannini, i conti pubblici vanno male proprio per colpa di un'economia che non va, e ci sono dubbi sulla spending review. Risponde Poletti: sulla spesa bisogna andare avanti con determinazione, ma siamo chiari, non credo esista un piano B o un piano C. Abbiamo scelto un impianto politico, non possiamo cambiarlo radicalmente. Senza piani B non teme il pericolo di un avvitamento della crisi produttiva? Direi di no. Ci sono vicende di crisi industriali che si concretizzano ora, ma che vengono da lontano. Ma accanto a queste situazioni di difficoltà ci sono altre realtà che decollano o si riprendono. Ci sono investitori internazionali giornali che guardano con attenzione all'Italia, cosa che un anno fa non c'era, e molte crisi riusciamo a risolverle. Il ministro Poletti parla di investitori internazionali, l'intervista poi va avanti, di investitori internazionali che stanno riacquistando interesse verso l'Italia. Una prova, un esempio ci sarebbe oggi sui giornali, sul Corriere della Sera, a pagina 8 e 9, c'è un'intervista a uno dei fondatori e CEO, cofondatore del superfondo, viene definito americano, BlackRock. Ecco, Fink: da primavera il clima è peggiorato, l'Italia ci piace ancora e ci espanderemo. Queste sono le dichiarazioni del CEO di BlackRock, che dice inoltre: Mario Draghi è un grande leader, di certo interverrà se l'inflazione resterà ai minimi. L'intervista al numero uno di BlackRock la trovate sul Corriere della Sera. Si intreccia il discorso sulla stabilità politico con quello sulla tenuta della promessa di fare una vera spending review. Ma è poi così difficile trovare il modo di farla? Sembrerebbe di no, perché per esempio sulla prima pagina di Libero di oggi c'è una conversazione, un'intervista interessante a un esponente di una società di cui anche il Sole 24 Ore quotidiano ha parlato spesso. Il numero uno della spending a Londra: ho tagliato 3 miliardi in un anno e addio corruzione. Chi è che parla, intervistato da Attilio Barbieri? Appunto un inglese, un americano, un esperto di finanza che viene da altre parti del mondo? Direi di no, perché Bravo Solution, 500 dipendenti di diverse nazionalità, 19 uffici in 13 diversi paesi, oltre 600 clienti, incluse 100 amministrazioni britanniche, i governi Cameron, del Dubai, del Messico e dell'Ontario, ma sede rigorosamente a Milano. È italiana, la numero uno al mondo della spending review. L'intervista parte in prima pagina di Libero e continua a pagina 7. Si tratta di Bravo Solution. 75 milioni di fatturato atteso nel 2014. Quando si tratta di tagliare la spesa e tenere sotto controllo i costi, la società milanese è in prima fila. Si racconta che quando il premier britannico David Cameron partecipa alle riunioni per tagliare la spesa pubblica, lo faccia solo se ha con sé il tablet da cui può consultare i documenti predisposti proprio da Bravo Solution. È vero, conferma Ezio Melzi, direttore generale della società. Glielo confermo, non si separa mai dalle nostre analisi. E allora però vogliamo sapere perché. Abbiamo un'esperienza di diversi anni con la Gran Bretagna, abbiamo incominciato a collaborare ai tempi del governo Blair. Con quali risultati? La spesa ora è sotto controllo, soltanto nel primo anno siamo riusciti a ridurla di 3 miliardi. 3 miliardi, 3 miliardi è una bella copertura per alcune delle nostre cose, o meno della copertura per l'abolizione dell'IMU dell'anno scorso. E continuiamo. In Inghilterra avete messo a punto una piattaforma per la gestione trasparente degli appalti. Mi fa un esempio? Ecco, questo è il cuore dell'intervista. È in corso di realizzazione il progetto Crossrail, il più grande a livello infrastrutturale in Europa, e riguarda l'ampliamento e l'ammodernamento del circuito ferroviario londinese, che trasporta più di 200 milioni di passeggeri all'anno. È partito nel 2008 e prevede la costruzione di oltre 100 chilometri di ferrovia e 42 di tunnel che collegheranno Londra attraverso le 38 stazioni esistenti più 9 nuove. Appalti gestiti per 15 miliardi di sterline, circa 18 miliardi di euro. Verrebbe da dire: bene, bene, bene, come si controllano le opere pubbliche, noi che abbiamo avuto i casi Mose, Expo. E allora la domanda dell'intervistatore è: il vostro ruolo qual è? I bandi di gara sono molto complessi, ognuno ha da 2.000 a 4.000 allegati. A oggi si sono svolte 250 gare che hanno coinvolto 2.300 fornitori e sono stati prodotti 28.000 documenti per via elettronica senza contestazioni e rispettando i tempi. Ecco il punto: gestire il tutto rispettando i tempi senza un software è quasi impossibile, e qui entriamo in gioco noi con la nostra infrastruttura di rete. spiega il Ezio Melzi, appunto, di Bravo Solution, perché tutti hanno capito che la gestione digitale delle gare è l'unico modo per rendere difficile l'intrusione di organizzazioni malavitose e ancora più difficile i fenomeni corruttivi. Dunque il punto di mettere assieme spending review e lotta alla corruzione, lo diceva due giorni fa sulla prima pagina del Corriere della Sera anche Francesco Giavazzi, lo spiega un esperto di spending review dal punto di vista del business, intervistato oggi da Libero. Ma la domanda a questo punto viene spontanea: siete stati mai contattati? Per esempio, il commissario alla spending review vi ha chiamati? No, non abbiamo mai avuto contatti formali, ci siamo incontrati in occasione di qualche convegno e ci siamo scambiati delle idee. Ma forse dovrebbe farlo, dice Attilio Barbieri. Noi confidiamo che prima o dopo accada. Quanto tempo servirebbe per far partire anche da noi il vostro sistema? 6 mesi, non di più. Dunque, quindi, Spending Review, Milano, una società, i consigli al governo Blair, Spending Review. Uno dei dibattiti che nei giorni scorsi ha caratterizzato la stesura degli articoli principali dei giornali è quello sulla manovra. Manovra sì, manovra no. Ci sono ragioni per dire sì e ragioni per dire no, da tutti i punti di vista. Renzi dice no per molte ragioni. Le spiega tutte e approfonditamente sulla prima pagina del Messaggero Oscar Giannino, ovviamente molto noto agli ascoltatori di Radio 24. Bilancio a ostacoli, la scommessa sui conti e la ripresa che non c'è. Nella prima parte del suo articolo Oscar Giannino spiega perché la ripresa non c'è e perché questo dovrebbe in una situazione normale indurre il governo a pensare a una manovra. Ma spiega Giannino che Renzi ha delle ragioni politiche per negare la necessità di una manovra, cioè appunto manifestare la voglia di prendere in mano le sorti della propria economia con scelte politiche, ma anche delle ragioni economiche. Per esempio, punta sul fatto che il ricalcolo del nuovo PIL possa in qualche modo favorire la contabilizzazione delle spese, dei deficit, dei debiti e quindi aiutare a rispettare i parametri almeno per via contabile. Ci sarà ovviamente chi griderà il trucco, dice Oscar Giannino, ma la speranza di Renzi è che a settembre la stima del deficit 2014-2015 su un PIL così rivalutato lasci critici e rosiconi italiani ed europei a bocca asciutta. Dunque, perché il premier Matteo Renzi è convinto di poter evitare una manovra di correzione dei conti pubblici? Lo spiega Oscar Giannino sul Messaggero di oggi. La prima ragione è la speranza che il ricalcolo del modo di verificare il PIL possa aiutare la tenuta dei conti. La seconda ragione, spiega Oscar Giannino, che al MEF lascia perplessi, peraltro, come tante altre cose su cui la struttura tecnica del Ministero e Palazzo Chigi non si prendono, di qui l'accelerazione di Renzi su un proprio pool di economisti fidati. La seconda ragione sta in una stima molto ottimistica, fino a 6-7 miliardi di IVA aggiuntiva incassata entro fine anno, grazie all'accelerazione del pagamento dei debiti della PA verso le imprese. La terza ragione, infine, è la riserva di azione politica che Renzi intende esprimere nel Consiglio europeo più di quanto Padoan possa fare all'Ecofin. La Francia ha già chiesto un ulteriore slittamento del rientro del deficit verso quota zero per la terza volta in 5 anni. La Germania vede crescita e indici di fiducia infrenata. Quando anche l'azzardo di candidare la Mogherini Mrs. Pesk andasse storto dopo l'aggravamento della crisi ucraino-russa, Renzi resta convinto che al Consiglio europeo questa volta devono pensarci bene prima di ridurre la sua volontà di riforme a pagare l'amaro pegno di una stangata fiscale aggiuntiva per recuperare un 1% di PIL di deficit fuori controllo. Ecco le ragioni spiegate da Oscar Giannino per le quali Renzi è convinto di poter evitare una manovra. Notizia curiosa legata all'economia italiana, sempre sul Messaggero, pagina 14, il marmo di Carrara adesso è dei Bin Laden, la CPC Marble dei parenti di Osama ha acquistato le cave amate dagli artisti. La città teme una pubblicità negativa, il sindaco li conosciamo da 30 anni. Bene, chi ha svuotato la spending review? Allora, abbiamo capito, ho cercato di capire perché Renzi conta di poter evitare una manovra, ma chi davvero ha svuotato la spending review? Lo spiega Tito Boeri su Repubblica. Prendiamo inizio in prima pagina, continua pagina 29. Spiega Boeri, il bonus di 80 euro introdotto nelle buste paga da maggio doveva servire a creare una constituency a favore della spending review, mostrando a tutti quali possano essere i suoi frutti. Più si taglia, maggiori le riduzioni delle tasse, che non devono a loro volta essere sostituite da altre tasse. Così non è stato. Il Parlamento, complici ministri distratti o incompetenti e nonostante il parere contrario della Ragioneria dello Stato, ha ben 4 volte aumentato le spese, invocando come coperture i risparmi futuri associati alla rassegna della spesa. Lo ha fatto con la legge di stabilità per il 2014, il decreto fiscale di gennaio, il decreto legge sulla PA e, dulcis in fundo, la controriforma delle pensioni passata con il voto di fiducia della Camera l'altro ieri. In altre parole, la spending review è stata svuotata prima ancora che potesse cominciare a dare qualche frutto. Non c'è da stare allegri, dunque. Continua Boeri, se oggi Renzi vuole essere preso sul serio quando dice di voler tagliare le tasse andando ben oltre il finanziamento in modo strutturale degli 80 euro, bene che si assuma in prima persona, a tutti gli effetti, la responsabilità di condurre in porto la spending review. È il compito principale di un primo ministro in un paese indebitato come il nostro. Deve essere lui a risponderne davanti al paese, con non un commissario. Non ci interessa leggere i documenti tecnici dei tavoli di lavoro, ci interessa leggere i provvedimenti che il governo adotterà sulla base di questi materiali. Il vuoto di democrazia è nelle leggi annunciate senza che ci sia un testo, non nei documenti dei tavoli tecnici, non resi pubblici. Ecco i consigli su questo fronte di Tito Boeri su Repubblica. Dicevamo, se volete vedere la lettera con il quale Matteo Renzi ha candidato Federica Mogherini, ministro degli esteri, al ruolo di Lady Pesk in Europa, è a pagina 6, sempre di Repubblica. Dunque, abbiamo parlato delle questioni legate agli esteri. Il default tecnico dei bond argentini, bello l'editoriale di Leonardo Becchetti sulla prima pagina di Avvenire, fermare gli avvoltoi. Abbiamo parlato di Bengasi, città caduta nelle mani degli islamisti, da leggere su Il Giorno, il quotidiano nazionale, Ennio Dinolfo, che dice che per certi versi questa situazione è persino più preoccupante e drammatica della situazione a Gaza. E ancora da leggere su questo fronte Carlo Panella su Libero, che riunisce i trattini di una pericolosissima carta geografica che sta mostrando e che mostrerebbe a breve la minaccia del grande califfato che in tutte le situazioni di crisi dell'Oriente vicino si sta in qualche modo delineando. Un altro suggerimento di lettura, se lo ritrovo, è un'intervista ad Arrigo Sacchi, che in qualche modo adesso non ritrovo, dove spiega perché lo stress è la ragione del suo a voler abbandonare ruoli attivi nel calcio. È una davvero bella intervista. Mentre chiamo il collega e amico Mauro Meazza in collegamento e preparo la notizia da fargli commentare, magari ritrovo anche dov'è l'intervista di Arrigo Sacchi. Mauro! Buongiorno Daniele, buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene, ma questa intervista di Arrigo Sacchi, non so, prelude a ulteriori valze sulle panchine degli allenatori? No, dovrebbe essere tutto... No, sulle panchine degli allenatori direi di no, anche perché lui aveva questo ruolo federale. Nel frattempo in qualche modo l'ho ritrovata, Mauro. Dunque, l'intervista è su Repubblica, a pagina 23. Mi divora il tarlo del perfezionista, lo stress del calcio non fa più per me. Davvero una bella intervista questa ad Arrigo Sacchi. Allora no, nessun cambiamento ulteriore sulle panchine, almeno per ora, nemmeno in FIGC non si capisce. Allora, la notizia che volevo farti commentare, la vuoi o parti così? No, prego, dimmi. Dunque, pure. Restiamo sempre su Repubblica, pagina 19, Roma, Lady 1243 case, fa la pace con il fisco, pagherò 50 milioni. Tutto a posto quindi? Tutto a posto, non lo so, bisogna vedere se hanno fatto il conto giusto con le 1243 case. Vedo che noi complessivamente come italiani, adesso forse tolti i 50 milioni della signora, abbiamo pagato più di 10 miliardi, lo leggo dal Sole 24 Ore di oggi, nella prima pagina di Norme e Tributi c'è il conto di quanto ci è costata la rata, i mutasi, insomma, quello che abbiamo pagato, non ci ricordiamo quasi neanche più, tutto il, tanto era il pasticcio che c'era, incassati 10,2 miliardi, superati, scrive Gianni Trovati, i 9,9 del 2012. Quindi funziona? Non voglio con questo dire che è aumentata la tassazione, sai che abbiamo già litigato con ministri del precedente governo sul punto, però insomma il conto alla fine, la somma è questa qua. Non so se Gianni Trovati poteva già tener conto dei 50 milioni, ripeto, della signora che ci segnala la Repubblica, perché allora dovremmo correggere e aumentare un po' la cosa. Funziona e tra l'altro probabilmente andrà a incassare di più, perché come sappiamo una parte dei comuni avevano rinviato gli incassi della TASI, tra cui comuni anche di grande portata come Milano. Voglio dire, resto un po' su Radio Fisco un momento per una notizia piccola. Ma non piccola. Sì. Allora, può darsi che il fisco vi chieda l'IBAN. Cioè, quella serie di lettere e cifre lunghissima che identifica il conto corrente. Allora, ce lo chiede perché ci vuole dare un rimborso, quindi lo chiederà a noi. Ecco, però attenzione, non ci saranno, attenzione alle mail, a messaggi phishing, come si chiamano in gergo, perché arriverà alle persone fisiche, manderanno una lettera e c'è una modalità precisa per comunicarlo, quindi da una parte una buona notizia, dall'altra insomma stiamo un po' attenti a non rispondere, visto che c'è questa moda di mandare le mail dicendo che ci hanno regalato dei soldi, basta che gli diamo il nostro conto corrente. Ecco, attenzione, perché non è il caso, e qui è una cosa seria, c'è un articolo di Francesca Milano oggi su Norme e Tributi. Continua poi la guida pratica, la grande guida pratica per la famiglia, però oggi sulle auto. Infatti avremmo dovuto lanciare la cosa che hai lanciato prima, ma insomma lasciamo stare, perché eravamo più in tema di movimenti, ma vabbè, insomma, per chi parte ma anche per chi resta, ricordo che la guida c'è sempre, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, andiamo avanti fino al primo di settembre. Oggi la RC Auto, da una parte i rischi, i diritti, le opportunità, si può risparmiare, però attenzione anche alle tutele che poi chiediamo o che non chiediamo, e come facciamo a cambiare polizza, perché anche questo, come sai, è una tentazione che possiamo sfruttare in tempi di spending review, anche senza i commissari, insomma non è che poi per decidere esatto. Una RC Auto abbiamo bisogno di nominare un commissario, possiamo forse... Mauro, ti ringrazio Carmelo Lauricella in regia, ringrazio i radioascoltatori per avermi ascoltato questa settimana e ti lascio la parola magica. Ah, ci siamo. Giornale Radio.